Gianni con me c'è un'apertura buona, è l'unico che mi arriva oltre il 9.10, capito? E agganciato mi arriva a 9.25, tutti gli altri 7 tra il 9 e il 9.10. Manco Antonello Lecce arriva come Gianni agganciato. È sicuro. Oh, Ivita in Grima, usci, che come stai parlando adesso? Ti crepa Gianni, parlate in due. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova. Ora l'asino. Ora. Ehi, non stava parlando Gianni, sta attaccando tutto. Arrivi, quanti Antonio ha agganciato? 9 più 20 Antonio. D'accordo. Non c'è problema, se attacco lineare qua c'è uguale. Ah sì, il tevuto qua, con tevuto me lo mangio. Stiamo parlando di baracchini, col tevuto dice 9.30 abbondante. Stiamo parlando col baracchino, tenendo conto che loro sono agganciati, però tu sei liscio. È chiaro che io ti sto dicendo questo, se cambi il radio non c'è per nessuno. Ah, me la male, grazie a Dio. Loro stanno provando un amplificatore, così a Cristianicio arrivi 9 più 20, Antonio Licio mi arriva 9,5, quasi 9 più 10, dai, quindi Antonio aggancia e c'è il segnale tuo, Gianni aggancia e leggermente ti supera, ma perché è agganciato, se no il segnale più alto qua, il tuo, è quello di Roberto. Lo so, anche di là. Certo che sì, lascia stare là, falla qua, con cuomane. Ma io le prendete, se non mi annoiate, la borsa dell'apparella. Vai, Franco Binario. Sì, io sto mettendo a posto il portatilino. Sto qua, ho fatto una chiacchierata con il portatile, con Giorgio e Reggio Maria. Ho attaccato il microfonino, quello esterno, e dice che cambiava un sacco la radio. Con quello originale invece mi sentiva un po' gracchiante. Già va bene, lascia tutto così, quando le cose vanno bene, lasciatele stare perché non ci sono problemi. E infatti, sei sempre tocca a tocca. Beh Gianni, qualcuno sta accordando nel canale a fianco. Sì, grazie la corda. Non svegliate il cane che dorme, la riga attacco lineare e vincere a tutti. Oh yeah. Mi sentite? Forte e chiaro. Claudio, mi senti? Caprale, io non vedo la parola di San Radio. 9.20 abbondante, certo. Cosa stai usando? Il corso all'87. Va bene, va bene. Ma forte arriva anche quello, Antonio. Ma vi ripeto, tenete conto dove sono io Sassari non lo vedo. Quindi i controlli giusti vi posso dare. Vi posso dire quanto incrementate e quanto non incrementate. Siete tutti con un segnalone. Caffa, sono molto... Ora. Ma bene questo mio, tutti mi hanno detto che fa cagare. Cosa, Anto? Sei anche troppo forte, dimmi. Se alzi la voce un po' diventa scatolata. KM600. Così è perfetto, una telefonata. Perché ero troppo vicino, ero. Comunque va bene, sì, una bomba. Sì, è chiara almeno, perché non è fortissima, però almeno è chiara. Gappa, esci un po' la bata asciutta così là. E che ora è? Ma per Gabriele? Papu, ma è me. Anche da voi c'è. Allora dai. L'ho portato la mia cognata dopo. Devi lavorare stasera, stanotte? Un po' di libertà. Anche quella ci vuole. Cosa, Anto? Un microfono a tavola non ce l'hai? Chi ci vuole un microfono? metti via, non lo so. Oh, ma spingendo è la massa dell'aria. Allora pulisce, c'ha qualcosa con la radio. Ho aumentato. Sì, lo credo. Lo stesso segnale di Gianni c'è adesso. Non hai toccato per il microfono. Oh, ho fatto un clima. Io ho abbassato adesso. Allora, quanto sono sceso da te, oh, Claudio? Prova. 1, 2, 3, prova, prova. Già stai andando bene, 9, 5, 6. Così, senza... senza lineare. No, senza lineare sei tra il 6 e il 7. Ehi, adesso sono liscio qui, senza nulla. Va bene lo stesso? Alla grande. Sì, tra il 6 e il 7, va bene. Quando attacchi fai 9 e 5. Ah, io buttateci le calecca lineari e trick e track. Un attimino arrivo subito. Vediamo se c'è Antonello. Antonello sta rifornendo. Lissi. Licchi. E Gianni. Affermativo, ho detto lampedisi le calecca e tutte cose. Claudio. Buonasera. Tutto bene. Ho visto che l'antenna è collato, gliel'hai fatto, Sono qua. A voglia, una cucciolata ha pigliato. Sì, sì, è stato un test, dai. Va bene, ancora lì. Sì, sì, ho visto, si vede anche il rinforzo che gli hai messo. A voglia. No, già va bene, dai. È stato un bel banco di prova. Quindi, posso dire di aver fatto un buon lavoro. Ottimo lavoro. Vediamo poi, è rientrato Alessio? Antonello? Buonasera, ciao, ragazzacci. Allora, buonasera a tutti. Sempre smanettando, eh? Oh, ehi. Perché smanettando? Un bel modo di smanettare. No, siete voi che siete... state facendo a crocchi strani, cosa siete come siete? Stiamo alzando le temperature di esercizio. Ah, faccio il compenso. Chi c'è nella ruota? Ci deve essere anche Gianni, doppio room, Alessio, vabbè, Claudio, un attimo il QRX, Antonio, mi sa che non mi sto dimenticando nessuno. No, non ti stai dimenticando nessuno, no. Minchia la freccia poco gira, ma cosa è? Ma è valvolare il tuo? Sì. Più scalda e più pompa, là. Perché? Un segnalone, insomma. Beh, più vicino alza, Chito. E lei le ringrazia. Ma cosa è? Ma io capo di consumia. Dai, caro di Santi, che va freddo. E che poverino pure lui. Io ho sganciato. Ormai sono abbastanza carico i condensatori. Io non devo sganciare niente, non ne ho da roba da attaccare. Ehi, non ne hai bisogno. Uno, c'è una bella posizione, una bella antenna, guarda. Altro che lineare. Oh, siamo a tiro di schioppo. Le nostre antenne fanno ciao ciao. Non si vedono, però si sentono, diciamo, dai. Vedi tu, siete molto vicini. Io ho il tetto, capito, che mi copre verso la tua parte. L'antenna è la parte interna. Già va bene. Sì, mi piace molto il suono, la dinamica dell'usciura, è proprio bella. Con la tua radio fa una bella accoppiata, proprio mi piace molto il suono della tua modulazione. Ma anche tu dici bene, è forte e chiara quella combinazione, è buona anche la tua. Bene veda. Oh, yeah. Anto, che pasta stai cucinando? Si chiama negli si croce al sugo, anche preparato un sughetto con la salsiccia che non ha finito il mondo. Ho capito, ma che tipo di pasta stai cucinando? Gigioni, tortiglioni, maffette? Ma veramente con si chiama sughi di roghi e tondi. I bucatini? No, non di quella pasta lì, no. Allora tu dici come si chiama? Mezze maniche. Allora tu dici, aspetta. Oh, sì. Vabbè. Franco, che radio stai usando? Sempre quel, cos'è? Il Gala, no, che a me non mi lamento. Sì, sono uguali. Questo è il Samurai. L'altro del Galaxy, ma sono precisi, cambia un po' qualche frequenza in più, c'ha questo scende un po' di più di frequenza, però c'ha meno watt, quello là c'ha una banda in meno, però esce con una ventina di watt. Ho capito. No, qua lo strumento con i picchi positivi me ne dà 8, dai. Questo io l'avevo abbassato, invece me l'hanno riportato su, diciamo, come in origine. Quindi bisogna che lo abbassi di nuovo perché mi sa che... Sedalini! Strappa un po' lineare. Ehi, ho capito. Anda a me. No, a Sedalini si chiama. Ehi, già giù, ha giù compreso. Io te lo appoggio. Vi siete calpestati a vicenda, oh, sì, fra, vabbè, ho capito, gli hai fatto una regolazione, dai, l'hai il tagliando, dai. Non l'ho fatto io, Non l'ho fatto qualcuno che c'ha qualche strumento. Quindi l'ho riportato un po' sui watt, ma è un attimino, dato, tolgo il tappo e me li abbasso. Perché adesso 10 sono un po' al limite, sono troppi 10 watt, capito? Ho capito, crea magari un po' di stress ai transistor, dai. È proprio al limite, invece mai gliene dai 5-6, perdi non so, 50-60 watt ma di potenza, però la radio ne guadagna. Vediamo poi se è rientrato Claudio. Io sono qua, continuate, già rientro subito. Capo, poi vediamo un po', Alessio, ci sei? Antonè? Sono qua, dimmi tutto, non c'è problema, sono qua. Dovrebbe andare anch'io, E invece Gianni, doppio room. Eccomi. Ah, sei rientrato. Sempre il room se c'hai? No. Cos'è attaccato adesso? Sì. Ho capito. Gianni, però ti aumenta la radio, lo sai. È vero? Già. Ah, adesso che sto facendo bene. Sto facendo bene. Aspetta. Vabbè, vado in altro caso, dopo la cosa. Si è raccordato, c'è transistorizzato. Ma devo raccordare le stazionali. Prova, guarda quanti watt ti sta dando, perché il segnale tuo è aumentato di un bel adesso, sei qua. Sì, quasi 9.30 già, vuol dire che qualcosa in più la sta dando. Vai, che già va bene. Adesso 60. 60 watt va bene, usalo col Galaxy, una bomba. 9,20 o 28, sì, con 140, questo è preciso, 9,28. Secondo me ne saranno di più quella qualcosa. Da 9,10 a 9,28, oltre 9,25, qualcosa, secondo me 100 watt ci sono, ma è preciso quello strumento già. Adesso l'ho regolato, dovrebbe essere preciso. C'ha picchi positivi, così va da 50 verso gli 80. Vedi che te ne sta dando 80 di picco, quindi già si vede, perché da 9.10 a 9.25 certi fatti ci sono, se non 190, capito? Fai che quello strumento perda 10% di incremento, che di solito lo fanno, 5%, quindi sei intorno ai 90 watt. Va bene già, usatelo così. Ma allora quello che devi prendere, quel sottoprotossetto, mi serve lo volantù. Sì, se sei d'accordo tu, io glielo ho detto Antonio, io ho una parola solo, quindi ho detto chiama Gianni, mettiti d'accordo con Gianni, se non le serve, te lo do a te. Io appena vado ad Alghero, Anto te lo porto giù, ok? Secondo me sta funzionando bene, secondo me. Sì, anche secondo me, però sono pochi infatti, evidentemente c'è qualche cosettina da vedere, ma forse come la fermo, magari c'è qualche componente in perdita, ma non è bruciato lineare sta andando, aperto da 9.10 a 9.25 va bene. Ma secondo me non sta andando bene, che sta andando male, non è di più. Aprica la grazia, ti dico, con il mio strumento, si dà disassare un po' come una pizza, lui o meno. E allora tutto con Mosca, io pensavo che fosse l'ignare invece è una spezzone. Ma già, l'ha fatto anche a me, io stavo diventando pazzo, cosa sta succedendo qua? In 6 metri, 50 mega, io ho fatto un danno allucinante alla radio, per un PL di merda. così, così, dai, già va bene. Già dai, va che ti piace. Allora le tessivate da 747 già, se lo usi così, virai, non hai peso ruda e sei a posto, alla grande. Anto, quando vado ad Alghero ti porto giù quel lignaretto, ok? Te lo metto in macchina. Sentito mi hai? Non intendi, no. Ascoltato, non sentito. Sentito hai, cosa hai ascoltato? Sentito mi hai? Lampu? Eravamo poco fa, con l'Alghero, sai dove? Su canale 7. Ci sono tutti là. Bastava passare lì due minuti, bravo, e ci avessi parlato, ci eravamo tutti. Ci parlo sempre con Valerio, con Cosio, con Franco di Alghero. Ma cazzo non sanno più che canale scegliere, prima non sul 14, poi non sul 15, poi sul 17, adesso sul 7, che cazzo ne so io? 7 PMR parlano adesso. Ah, sul 7 PMR, vabbè, quando capita ci passi, non è che ci vado molto d'accordo con questi PMR o queste cose, io faccio la rimattore, se lo devo fare, il cibo se lo devo fare, queste cose a me non è che mi piace una serie. C'ho tutto, ma uso le cose così, a volte poco, a volte molto, dipende da come mi sento. Va bene, facciamo girare. Franco, riprendi tu, eh. Capo, no, anche io sei stato curioso a vedere se Alghero arriva qua, in PMR, però avevano già chiuso, così è lì. Esatto, sì, l'ho chiuso poco fa, la verità, ma comunque fino a quando l'ho fatto, la verità, sul canale 7, quindi a un certo punto, va bene, comunque, non è che cambia molto, la verità, non cambia niente, la frequenza, cioè, anche se cambia la frequenza non c'è da niente, ma l'importante è parlare, tutto lì. Te l'appoggio, è così, a me l'importante è farmi due chiacchiere, poi se le faccio in VHF, in UHF, in HF, cosa me ne affutti, l'importante è scambiare due chiacchiere e ammazzare il tempo. Anche qua ho visto che, insomma, stiamo entrando, non so se la mia presenza ti ha eccitato un po' le cose, ma io due chiacchiere qua me le faccio, le ho messo sull'antenna, ho risistemato tutto, non me ne affutti nulla a me. Se volevo parlare in banda amatoriale, parlo in banda amatoriale. Se volevo parlare qua, parlo qua, qual è il problema? Avanti, tu profetta. Ui, e allora? Se lo parla brutto, stasera. Allora, mi dice che c'è come da brutto, io sto facendo da bravo. Ecco, aiutini, trick e track, bubu. Già, io viaggio l'aiutino, ma accetto, non spreco energia per farmi due chiacchiere 27, io sto andando con 30 watt regolati con 140 e non me la futti nulla, va bene così. L'HF, i lineari lo uso in HF, non lo uso qua in 27, cosa ne fai in 27? Ma fammi di cosa? Era semplicemente una battuta. Anche modulazione che c'ha Franco, binario, cazzo, un burro. Franco è sempre uscito bene con quel microfono, col baracchino. Io non so se sto andando bene perché questo 60 ogni tanto fa i capricci, però mi sembra che stia andando bene, dai. Sempre bene, Clan, è la tua modulazione questa. Davvero. No, ultimamente l'ho dovuto aprire un paio di volte perché mi si bloccava l'amplificazione. Poi alla fine ho scoperto che cos'era e adesso sta andando bene. Vabbè. Avanti, motopompa, poi rilancia per Gianni Doppio Ruth. E non c'è problema per quello, che ci mancherebbe. Vabbè, stiamo bene. Ognuno si faceva la quota sua, diceva quello. Quindi, siamo a posto. Antonio, non ho il controllo di Santiago. Fa passaggio. 1, 2, 3, 4, 5. 9 più 20 gradi 5. Non ho capito. Cosa già? Ho capito cosa è. 9 più 20 radio 5, ora. Perché si è mangiato la parola. Ma anche da lui, comunque siamo lì, dai, da 9.20 a 9.25, non è che cambia niente, già va bene, già, sfruttatelo così. Ho detto 9 più 20 radio 5. La radio come è chiara? Sì, chiara, sì, esatto, sì, bravo. No, ma... Ti piace bene a tu? Mi ha fatto un discorso. E io come ti arrivo, un favore, stavo dicendo. Fa passaggio. 1, 2, 3, 9, 3, 9, 3. 9 più. Nell'87, quindi sai di cosa sto parlando, quindi a un certo punto c'era anche tu. Calma. Tu, quando vado al ghetto te ne scendo con linea retta, lo vuoi ancora? Lo vorrei sì. Ok, quando vado al ghetto te lo scendo, intanto Gianni si è organizzato con quello lì e sono contento, va bene. Calma. E adesso, prossima settimana, però, ti do i soldi, che chi si baga, mi devi pagare 180 euro a mano di là. Se non me lo danno, cazzo ti faccio l'ufficio, che mi ha fatto un burro travagliente. 280 euro mi devi dare. Però tanto 280 euro va bene, sono contento che te li diano. Apri quel microfono, te l'ha spiegato Gianni cosa fare. Spruzzare un pochino, pulisci le lamelline, bene, col cotone e l'alcol, o se c'hai della trienina, e poi le spruzzi lo spray per contatti. Cazzo, ne vai poco di casino con questo microfono. Adesso già sto andando. Dai, che è pronto a mangiare, dai, ci sentiamo. Ciao, buon appetito, ciao a tu, buon appetito a tutti e due. Ciao, pa. Cazzo, sta mamma la grande, cazzo mi arrabbia. Bene, non avete problemi, un profè. Cazzo, io ti tocca a combattere la ghisci, vizzino, chivi, bobo. Se cominciamo a che gabbo, crocro. Meno male, io me ne sono andato lontano, cazzo, boh. Fui alla bagna. Allora, contento sei Gianni che funziona lineare, visto hai? Sì, sono contento, non ci avevo pensato prima a cambiare le istruzioni. Non ci avevo pensato prima. Mi andavo fuori lo scala, pensavo che fosse la lineare, invece non è quello. Non è rosso. Oh, io non capisco come fanno a dare la radio 5 a Gianni, qui io sento tutta la ventola, io gliel'avrei fatto abbassare il microfono. Lascia trottare Gianni. Nel ventolo si sentono lo strappi che sono nell'alimentatore. Prova a passare la, se puoi diminuire un po' il guadagno del microfono. No, fra, devo rifare il collegamento perché adesso l'ho messo vicino al microfono perché il filo è corto e quindi non ci arrivo. È per quello che ho fatto, devo rifare il collegamento, allungare il filo, mettere l'alimentatore giù e la saltare così. Vabbè, pazienza, dai. Io ho detto la mia opinione, non so, beh, anche un profeta che c'è all'orecchio allenato. No comment. Come no comment? Ma è normale, ragazzi, se un alimentatore è vicino, qua non sentite niente, perché gli alimentatori ce l'ho a sotto, nel vano di sotto, tutti in fila, ne ho quattro alimentatori, tranne quello di linea della Kenwood, che quello, vabbè, quello è un trasformatore, ma quelli a vento io ce li ho lontani, i cavi sono lunghi e non si sentono, ma se Gianni ce l'ha vicino, vi ha detto che deve allungare il cavo, cazzo, ma perché non vi fate i cazzi vostri? No, ma abbassare un po' il guadagno del microfono, solo un po' e basta. Abbassati tu, mettiti in terra, lascialo stare così a Gianni. Guarda, così bene va a fare. Guarda come se lo difendevi. Guarda come se va bene. Infatti siamo vicini, capito? Già va bene, già va bene. Ma le vetro gli alimentatori, ragazzi, si devono sentire. Se no non c'è. Non si può fare questo. Vero, prof, la matta di nervaria. Oh, io ventolo già non agio, per me non agio, quindi zero vento, ma credo che si senta che non ci sono vento, no? No, tu sei chi, l'hanno baciato, quando si firmava ero Burma sotto a casa d'Oia con il col coso, con il col condizionatore acceso, si sentiva anche nella radio. E questo dettaglio non me l'avevi detto, scusa, io non lo sapevo. Ah, tra l'altro hanno ripreso a parcheggiare qua sotto, visto che stavo facendo i lavori sulla tratta Porto Torres Chirivane, mi pare, un autista l'altra sera ne ha buttato il palo della fermata. Così no, cioè, non ha filmato, non ha frenato, boh, ma non ha fatto tutto. Infatti l'ho pubblicata su Facebook. Ho detto, ho scritto, virgolette, nuova segnaletica orizzontale per l'autobus sostitutivo dell'ARS. No, non è l'ARS, non mischiamo lungaggio con la lana. Ho detto auto sostitutivo, non ho parlato del l'ARS, Ferrovie dello Stato. E perché sono loro che stanno, è perché stanno utilizzando i nostri pullman. No, negativo, c'è Verano un brocco con Gest Sardinia. Questi hanno noleggio, i bus hanno noleggio, non hanno fatto l'ugartello. Ah no, pensavo che stavamo volando, perché già non battono per noi i pullman, li diamo anche alle Ferrovie dello Stato, no? Non credo. Quindi prima era verticale, adesso è orizzontale, così? Eh beh, rubare la verticale, adesso la segnaletica è orizzontale, no? Hai capito, vedi? Ah, ne ha buttato il palo quello che segna la fermata. No, già. Eia, in retromarcia mi era fatto rubare in terra, boh. E poi c'erano telecamere, avvisato gli acustici, arrivo pi, non hanno fatto tutto. Ecco, dai, vai, doppio rubo. Gianni sta allungando il cavo, cazzo. Ma ti vuoi che gaglia franca? Mamma mia, oh. Oh, avevo difficoltà anche a capirlo, vedi. Non lo so, infatti come fanno dagli 5? Io manco, già sono un po' come mezzogiorno io, ma... Sto scherzando, no, la sentivo anch'io la vetro, ma è normale, dai. Se c'è un alimentatore vicino al microfono, adesso lo allunga e vediamo un po' cosa succede, no? No, io pensavo che abbassasse un po' il trimmer del guadagno, no? Il mic gain oppure dal microfono. No, è come stava facendo con l'operazione, evidentemente c'è l'alimentatore troppo vicino, capito? Ma già lo sposto adesso. Proviamo così se si sente l'aumento, la 1, 2, 3, 4, 5. Molto meno. No, io non sento niente. Ecco, ora sono la posizione da cambiare. Franco. No, va meglio. Sei agganciato adesso, sì? Sì, sì. Per te è migliorato già. Gianni, tu profe. Ah, com'è ce l'hai? Sì, adesso va un po' meglio, dai. Non ti sei sbilanciato molto, dai. Qua va bene, alla grande, proprio leggero, ma è normalissimo, va bene. Quando sei vicino senti tutto, capito? Allora, purtroppo è così, vabbè, però già sta uscendo bene Gianni, dai. Oh, hai visto Gianni, doppio rum? Tutti i bimbi che stanno trovando in mezzo alle spiagge, in riva, bimbi, conchiglie e quant'altro, canolicchi. E le mareggiate li hanno fatti arrivare. Sì, li ho visti che stavano a raccogliere i bimbi, ma non penso che sia in zona, penso che sia fuori. E qualcuno ha detto che è in Sardegna pure, boh, quello il campione di lancio tecnico, come si chiama, Biagio Morra, dice che è in Sardegna, ma ah, enormi, quindi sarebbe bello anche trovare un po' e un po' ci possono anche congelare. Oh, si svoltano i bimbi pure, sono cazzo pieni d'eva dentro, cioè, lo sai, se non usi quell'ago speciale, se usi con la punta li buca. Ma quando sono vecchi cosa fanno? Li apri, li tagli e li giri al contrario praticamente, tipo un ganagulo, li giri al contrario e li leghi col filo elastico. E dice che sono molto, come dire, molto attraenti. Così non l'ho mai usato, io ho sempre usato i bimbi interi, infilati con l'ago, quello con la punta tonda e niente. Ascolta, dimmi una cosa, tu nulla ne sai se quello di lì punti ha chiuso Sportland. Ma non credo, cosa? Torre e Cucurito? Non credo, perché? Non l'ho più vista aperto. No, io l'altro giorno ho visto, era tutto illuminato di notte, quindi penso che sia ancora aperto. Anzi, ti dirò, a volte fa prezzi meglio lui di quell'altro con gli sconti che ha fatto a dicembre, al 50%. Sì, no, lui, guarda, quando tu andò a vedere a come entrare un negozio alimentare, sempre meno di ieri. Dove? A Torre. È perché quando uno lavora bene, caspita, io me lo ricordo da quando era prima dentro i punti, non so se ti ricordi. Sì. E vabbè, io mi servo da lui quando vado, adesso bisogna che mi piego le maniche e ci vada qualche sera, ma non vado più di notte al freddo. Cosa ti serve? Niente, c'ho tutto. Ah, giusto per... Quindi siamo usciti a calamari l'altra sera, ne abbiamo fatto uno a testa, uno io, uno mio collega e un altro collega, là. Lì a verso Castelsardo, oh, nulla proprio. Bisogna avere fortuna a trovare il passo, perché i calamari vanno tutti insieme e come vedo ora scatti si tirano. Vabbè che lui ci deve sistemare lo strumento, era un bel... come si dice, molto rumore vuole settato lo strumento, capito? E usarlo per cercarli, non è a buttare così la lenza a casaccio, bisogna cercarli e buttarci sopra l'esca. Avanti Claudio. Io non me ne intendo, no, no, già mi piace andare a pescare, qualche volta sono andato con Gianni, con la buona Manattarino, però poi non ci siamo più andato, già va bene, già va bene. E dov'è che stanno, ma cos'è, dalla spiaggia arriva questa roba? Sì, c'è stata una mareggiata, sicuramente zone vicino a stagni, roba così, uscite di fiumi, ha fatto uscire questi vermi da sottoterra, come li ha travolti la mareggiata, ed era pieno, ce li trovavo in mezzo a bagnasciuga. Che schifo. Ma di quelli grandi, non quei bibbi che compriamo noi, che sono grandi quanto un mignolo. Questi erano da 40 centimetri, 30 centimetri. Che cazzo c'era i serpenti? Un periodo li vendeva anche la piazzetta, li vendeva in vari appesomi. Ma erano enormi, cavolo, infatti dovevo tagliarli a pezzettini, perché erano troppo grandi. E praticamente di quelli devono essere. No. Attrezzatura per Gianni doppio room, no, io no. Grazie del rilancio ragazzi, io devo scappare, mi aspettano delle cose qua a Domo, quindi saluto tutta la ruota e ci sentiamo prossimamente, dai, devo scappare, ahimè, dai, Vizzino, se fate da bravi e ci sentiamo alla prossima, ok, buona serata a tutti, QRT per me, ciao profe. Ciao Gianni, un forte abbraccio, alle prossimine, gaffa. Ciao. Lessi? Ma Lessi che è giunto a Gadrea, Antone? Oh, è andato a bagnarsi il becco. Ancora? No, lui come si asciuga serve bagnare, ciò non canta. E poi mi trovi fa anche bene, beato lui, si fa da tutto adesso. Rimbaccia il vasi della Gugliupa. Qualcuno ha bussato? Io che c'è una roba sopraportante, deve essere come una mossa, capito? Andare, eccomi qua, adesso lo facciamo andare un po', lo facciamo funzionare, vediamo un po' come va, poi l'ostacolo mi interessa, facciamo solo quando serve. Io ho anche uno speedy qua, che non so, mi sa da una settantina di watt, 80 watt, con una valvola. Sì, lo conosco, era della CTM qua. Sì, CTM, però è sempre fermo. Cosa dice che si può modificare? Ho detto Alessio, dice lo modifica per farlo rendere un bel po'. Ma lo devi modificare, c'è questo amico di Alghero che c'ha un sacco di roba, c'ha un BV132 che ha due valvole, non ha una, 131 è una valvola, 132 ha due valvole, nuovo, lo sento, funziona bene, infatti allora me lo biglio io, quando devo usare un baracchino l'attacco lo lineare, quello da più di 100 watt, molto di più, mi pare sui 150 watt, capito, è nuovo, il BV132. Ma 220 o devi alimentare il trasformatore, l'alimentatore? No, 220 è come il BV131, solo che l'hanno chiamato BV132 perché c'ha due valvole. E quindi rende anche meglio, va? No, questa ne ha una, ma prima c'aveva anche il padre di quello, il Jumbo Aristocrat, quello sì che aveva 3 o 4 valvole, scaldava come un demonio, poi si era bruciato. Quello il Jumbo l'ho avuto anch'io, quello c'ha 4 valvole più una pilota, 5 ne ha. È un bel mostriciato con la 27, solo che col calo di luce che c'è stato te ne mangia le balle, lasciate perdere. I lineari oramai tutti i radiatori stanno usando il lineare allo stato solido, perché non consumano e sono molto più efficaci, sono molto più seri. Quello che ho io fa tutto da solo, cambia la banda da solo, non ha bisogno di accordare niente, capito? Non l'altro devi stare, ogni cambio di banda devi fare l'accordo, ogni cambio di banda facciamo una barca di energia. No, anche questo mio io, il 507 è lo stesso, non devi accordare niente. Ho stato solito anche questo, la conoscerai, no? Io ho l'RM Italy LB800 che mi dà sui 700 watt da banda laterale, ma io lo piloto con 20 watt, quindi intorno ai 450-500 con la KF. Non lo uso mai, lo uso solo quando proprio è necessario, se no mi sentono tutti anche con la potenza della radio, quindi non... Sono cose che sì, in stazione ci vogliono perché ci vogliono, ma non è che devi stare sempre attaccato, non lo so meno a tutti. E quello 220, no? O quello 12? A 24 volts, c'è cioè il suo alimentatore a 24 volts. Siamo di ampere assorbe? Una ventina, 20. No, lo sto dicendo, 24 volts come amperaggio è 80 ampere, quindi è una quarantina di ampere assorbe. Se macchina, due passaggi non viene più batteria. No, non è da mettere in macchina, non ha ragione, fra, ma non c'è una te grande. È lungo 70 cm, c'ha tre ventole, c'è un amplificatore d'antenna, il segnalatore che ti indica i LED, che indicano la modulazione di accesso, capito? Non un bel amplificatore, poi le RM Italy sono amplificatori seri, non sono, non è Monbetta, questo l'ho pagato intorno ai 600 euro, una cosa del genere, 650, 620, solo io l'ho preso da un amico che non lo usava più e l'ho pagato 400, però nuovo costa intorno ai 700 euro. È roba da parapesante, da camionista, dai. Avanti Gianni. No, è HF, fa 10, 15, 20, 40 e 80, cosa avete tra 27? Fa tutto. Invece quelli che usano i camionisti cosa usano, quelli che hanno un sacco di watt? 1200 watt, il parallelo, da 600. Vabbè, c'è anche il BV 1200, non lo fanno più, ma era per la 27, quindi vanno da 25 MHz a 30, questo è HF, questo fa 0,30, quello che c'ho io, quindi per usarlo in 27 devi avere un accordatore, altrimenti lo bruci. Perché lo bruci se va da 0 a 30? Passaggio dai 10 agli 11 c'è disaccordo e puoi fare danno, devi sempre avere in mezzo un accordatore per la 27, mentre invece con l'HF c'è l'abbinamento 10 metri e lui va in 10 metri in automatico, sono già tarati. Non ho capito. Oh, questo non so, 507 sarà così dai 25 ai 27, cioè ai 28, non penso che arrivi ai 30 questo. Sono tutti 25 e 30, praticamente abbracciano le bande varche sino ai 10 metri, però anche lì quando superi la 27 che vai oltre la 27, oltre gli 11 metri che vai a toccare il 28 ci vuole un accordatore, perché vai in disaccordo con l'antenna, capito? Invece quello che ho io no, quello è proprio 10, 15, 20, 40 e 80, è proprio decamete, cioè è HF, capito? Però automatico, cioè non li cambi tu, non ha un selettore per i metri? No, è automatico, io non lo tocco, lineare in automatico, cambia automaticamente. Io sono in 40, mi sposto con la radio sempre, in 80 e lui fa lo stesso anche in 80. Cioè, è lì che scattano da solo all'interno, no? Sì, sì, riconosce l'ingresso, il segnale, là. Sì, io però. Riconosce la banda, è fatto apposta, 0,30. Mentre invece, per esempio, il 505, quello fa da 25 a 30, sempre dell'RM Italy, capito? Non abbraccia, non è HF. Questo è HF proprio, infatti io non lo uso il 27 che non me la fotti nulla. Ma quanto è fatto che ho 100 watt di radio, quindi è come che stai usando un lineareto. Io lo uso sempre a 30 watt, ma non è un problema. Dai, adesso ho fatto una prova. Lo sto usando con un kilowatt e da 90 watt. Adesso è staccato però. Sì, adesso sì. Sì, già, va bene, va benissimo alla grande, ti ripeto, è un lineareto che deve dare oltre. 300 watt, poi 150 e 180, perché sono così quelli. Però quello evidentemente, rimanendo fermo, c'ha qualche componente in perdita, ti dai sui 100 watt, ma va bene lo stesso, usatelo così, è ottimo. Cazzo, da 9.10 a 9.25, se c'è qualcuno lontano che non ti sente, attacchi e recuperi il segnale, no? Beh, certo. Vabbè, era per vedere se c'era differenza tra una scala e l'altra, capito? Perché tu hai detto, ma sicuro che usi un bullet di quei, cazzo, sono un 40 zincane, non so usare un rosmo trovato. Ma stai scherzando, qua c'è il TM1000? L'HP. HP1000, che è dopo il TM1000. Io c'ho il TM1000 che era di Natalino, c'ho due o tre strumenti. Poi c'avevo un Diamond HF, sempre di Natalino, però non funzionava. L'ho dato a Fabrizio e se l'ha messo a posto, me lo sta usando lui. Ce ne ho due o tre o quattro di strumenti che avevo preso da casa di Natalino. Va bene, che ci è rimasto? La motopompa è andato a bagnarsi il becco, Antonio è andato a mangiare, idem per Gianni Lobroffetta, quindi siamo rimasti in tre. Come la prima? Mi chiama Alessio. No, guardi, sto uscendo basso al basso. In FM, sì. Dottore, dice andata a San Camillo. In FM. In FM, sì, molto po'. Cazzo, dice che le fa bene la birra ai dolori, cazzo. Guarda, i dolori già li passano. E ma non vede più un cazzo da voi. Poi non vede i pulsanti della radio. Poi perché l'ha toccato? Motopompa, cosa stai combinando? Antone! Sant'Antone mio, io non so più da che parte girarmi con questo mio vicino, cazzo, boh. Non è cagionellano di Remo di Ghito, boh. Ho sopportato quasi 40 anni a fianco a me, adesso mi sono allontanato ed è diventato peggio, cazzo. Mi lui? Molto poco, quasi vedi. L'abbiamo mangiata, va in FM. Va bene, avanti fra. Ho ragione che è in FM. Ehi, sta provando, c'è un bel portatilino che fa tutto. La 27, le mure, capito tutto. L'ha aperto anche una stronzata, esce molto bene. Com'è, ha fatto le prove? Da tutte le parti, esce molto bene. Ma nuovo? Allora. Ordinato da fuori. Esce bene, hai visto un FM? Esce benissimo, alla grande. No, io anche il segnale era buono, Che cazzo è un giro, gli attacchi l'antenna esterna. No, va bene. Roba cinese, qualche cinesata, No, l'ho visto io, è bello però, un bello portatilino, è piccolo mi. Però fa tutto, capito? Fa tutto, le V, le U, la 27, tutto fa. Ed è portatile, c'è la batteria, dai. Sì, puoi attaccare l'alimentazione, poi c'è la batteria, con l'antenna sua telescopica, alta di quella in ferro, e poi le puoi attaccare anche il connettore dell'antenna. Di russo, e poi mi mandi il link per vederlo, se ce l'hai. No, io l'ho visto dal vivo, no, non me ne ha mandato foto, ma se lo dice Antonello già te le manda le foto. Non so se c'è il numero di Antonello io, però, Sì, vabbè, la manda a me e poi te la giro io, o la manda Gianni, che problema c'è? Gianni? Tu ce l'hai il link di quella radio di cui stiamo parlando? No, non lo stavo scegliendo, sinceramente, perché se lo faccio io. Poi lo chiediamo a Antonello, se lo manda uno di voi e poi me lo fate avere. Così, per curiosità. E io so. Datemi 2 minuti che devo chiamare mia mamma, se non si muove. Sono qua comunque, non c'è problema. Ehi Ale, mandaci i dati di quell'apparecchietto. Ah, di quello che ho preso, sì. Sì, dici che hai preso un bel giocattolino. Va bene, adesso te li mando, aspetta un secondo, 2 minuti e ti mando i dati. dico subito. Ma ce l'hai il mio numero? No, no, c'è bisogno, guarda. Ti dico i dati, poi vabbè, tu andrai su internet, non c'è problema. Tutto come vuoi, capito? Sì, capo. Aspetta, due secondi che mi sto sistemando un pochettino. Aspetta, due minuti. Sì, tranquillo, tranquillo. Ciao ragazzi. Che ora è? 19:20, tra un po' bisogna fare da mangiare. Ieri ho avuto un attacco di gastroesofageo. Ci avevo portato un bruciore di stomaco, guarda. E non sto mangiando nulla oggi. Non è influenza, no? Sì, dopo l'influenza questa cosa mi è venuta. Tosse, nausea, questa roba qua mi è venuta due volte già, io non avevo mai sofferto. Perché c'è molta gente, qualcuno ha preso allo stomaco anche, quindi vomiti, crampi allo stomaco, nausea. Io ho un po' di tosse, ero in viaggio fuori, ma perché? Perché ero con degli amici che purtroppo anche loro erano mezzo beccati, quindi piano piano parlando vicino così me l'ha attaccata, però ripeto, non mi ha dato febbre almeno, però un po' di catarro, un po' di tosse l'ho avuta. No, io ho febbre a 38,8, che catarro, tosse forte, mi si asciugava la gola. No, io infatti mi ho fatto un po' di aerosol, giusto per liberarmi quel muco che sentivo, più che altro là in fronte, un po' tipo un effetto della sinusite, che ti senti quella pressione lì a livello di fronte, e meno male mi ha liberato, dai. Vediamo se è rientrato Antonè. Aspetta un secondo. Alessio è tu. Ok, là, dai, mi sto preparando. Sto preparando un aiuto di graziato. Quanti anni ha adesso? 3, 4, quanti anni ha? 3 anni. 3? E io, dai, che lo lavo e lo stiro, te lo preparo. Un bel fagottino? Ti mangio e prepara pure io. Capito? E io. Chi è? Non ti sentiamo. Vabbè, non c'è più nessuno. Uno stava entrando, l'ho rilanciato, ma un paio di colpi importanti ha dato, ma non è entrato là. E Giulio? Sta entrando? Hola. Giulio, dico, sta entrando? No. È un po' che non lo sento. In questo canale no. Ehi, non è che ce ne siano altri canali occupati. Ah, ma mi pare che lui se l'è scritto in un'associazione tipo Alfa Tango, così, fanno i 10 in banda laterale. L'avremmo sentito però. Sai che ho sbagliato pastiglia, ma se ho preso la pastiglia ho sbagliato. Occhio. Boh, aspetta un secondo che sto cercando. Dove cazzo è il coso? Aspetta due minuti. Lato, ride, cazzo. Immagino questo cazzo di Facebook, cazzo. Da te, cazzo, cosa del genere, cazzo, cosa cazzo? È un casino. Beh, non la puoi leggere la marca. Ha fatto i cinesi, cazzo. Hai visto i cinesi? Ti metti la crema, cazzo, e due secondi, cazzo. Ti dice valisco di 20 anni, cazzo. Così, boh. Sarà vero? Carità, guarda. Vaffanculo, va. Ormai con l'intelligenza artificiale non bisogna mai fidarsi di nessuno. Ti mando io dalla Cinesina al centro massaggi, Antonè. Sì. Sì, sai cosa metto? La crema dello sperma mi metto, cazzo. In modo da ringiovanire. Oi, va bene, dai, che sto fatto il bagnetto a Riccio. Via. È Gabriellino. E allora? No. Non c'ho niente per quella cosa. Cosa vuoi dire? Ehi, quando lo trovi, me lo fai sapere, là. Creme, poi c'è quello per alzare il pisello, eccetera, eccetera, capito? È tutto un casino adesso. Vaffanculo, cazzo. C'era, cazzo, la verità, l'altro giorno, cazzo. Vaffanculo a me che non ho memorizzato. Ehi, crema per le bu. Io già Google, scusa, ti fa la domanda a Google, se va là. C'è stato un cazzo Google, no? C'è stato proprio niente Google. Affanculo, cazzo, guarda. Modifiche cose del genere, cazzo, a un certo punto. È un casino, cazzo. Stai cercando forse su Facebook. Se io là in automatico, ma. Ma cos'è che sta cercando? Non ho capito. Sì, ha comprato un aggeggetto, un portatilino, dice che è di lusso, che copre un bel di frequenze. Sì, c'è anche la 27. C'è un pare frequenze radioamatoriate, 27. Sì, c'ho quello io, cazzo, c'ho quello. Il discorso è quello. Hai capito? L'altro, cioè, quello che ho io, in pratica, fa un tipo di frequenza. Poi c'è un altro invece, te ne fa un'altra. Cioè, in pratica basta programmarlo tramite eccetera, eccetera. In pratica entra in 27. La stessa ricezione, capito? Tutto lì. Ma sono uguali. Precisi sono, c'è l'880 e l'857 eccetera eccetera. No, io non la conosco ancora. Aspetta, ti faccio la foto e te la faccio vedere. Fai la foto e lo mandi a Gianni. E io vabbè, sto mandando a Gianni, là, ok. Perché forse il mio numero non ce l'hai, capito? Quindi poi Gianni lo manda a me. D'accordo, vabbè, sta mandando. E così lo guardo anch'io che sono curioso. Sì, anch'io per curiosità, Che magari ce lo compriamo. Credo che costi anche poco, quanto ho capito. 50 euro costa. È fattibile, da. Sì, Mario, se te lo prendi ce lo prendiamo insieme, come la tra voi. Poco fa stavo provando di nuovo con l'ambaradama attaccato, innesca sempre, però invece forse senza niente, liscio va bene. Prova a abbassare il mic gain e anche la potenza dell'apparecchio. La potenza non la posso toccare. E può essere anche quello, vedi, perché come l'abbiamo tarato, come l'hanno tarato, sicuramente mi hanno riportato la potenza ai 10 watt. Non avevi disturbi anche quello, ma non lo so. Oppure sono proprio le radiofrequenze che trasmette Alfa Lima e entrano dentro il microfono. Perché liscio va bene. E dove ne mandate? In continente a tarare? No, un amico qua l'ha fatto qui in zona. Ora è perfetto. Allora, quando scalda un po' scende un po' di frequenza. Beh, se è stabile, vedi, ho messo una ventolina dietro per tenere lo chassis freddo, dal telaio freddo. E sembra più stabile. Se no un po' scende, dal 7.5 se ne va a 7.4 per esempio. No? E poi l'FM, ma qualcuno è arrivato, dai, mi sa che mi devo salutare. Io. Dai, un abbraccio a tutti. Ciao Fra, ciao, ci sentiamo, dai, buona serata. Avanti che arriva, sei tu, ci sì. Facendo una doccia al bambino. Fai tu, che qui mi guardo le diverse posizioni, dai. Mentre se non c'è nessuno mi faccio questo lavoretto. Oh, pulsante, altro, un pedale. Un pulsantino che manda l'impulso che si comanda a distanza, capito? Guarda, se una cosa del genere. Voglio modificare un MP4, voglio modificare. Capito? Non usarci. No, io non ne ho. Io sì, c'ho interruttori, ma pulsantino. Io la mia intenzione è questa, di prendere un pulsante che, come si dice, che si comandi a distanza, capito? Cioè, un pulsantino. Voglio vedere se c'è in commercio, perché io cosa faccio? Lo collego all'MP4, il congegno, poi dall'MP4 mi prendo i fili, ci metto un microfonino e macchina, io come va a schiacciare il microfono, cioè se ci esiste un congegno del genere lo voglio fare. Ok, aspetta un secondo. Ci sentiamo, buona carica e buon tutto, ciao ciao. Ciao ciao a tutti. Marco, mi sembra tu lui che ha fatto l'intervento.